L'evoluzione dell'amore, del linguaggio e della coscienza. Ovviamente anche i rapporti disamorati, crudeli, violenti, sessuali e non rappresentano altrettante possibilità per la nostra specie, ma l'evoluzione negli esseri umani di quel potenziale altamente sviluppato di correlazione conscia e affettuosa che chiamiamo amore ci offre la base per un modo più equilibrato e appagante di relazionarci tra di noi e con il nostro pianeta. Un modo che riconosce l'interconnessione essenziale dell'uno con l'altro e con il resto della natura. Il principale sviluppo evolutivo che emerge nella comparsa della nostra specie è il cervello umano, ed è il nostro cervello, insieme con le corde vocali, che dà conto direttamente del fatto che la nostra specie è l'unica capace di comunicare mediante quei simboli complessi che chiamiamo parole. Ma come osservano i biologi Umberto Maturana e Francisco Varela, è la nostra sessualità frontale e non stagionale, insieme con il lungo periodo di dipendenza fisica dei frutti di questa sessualità, che a quanto pare ha dato l'impeto principale a ciò che definiscono una biologia della collaborazione e una coordinazione linguistica dell'azione. Altri studiosi, per esempio Adrienne Zillmann e Nancy Tanner, attribuiscono sia i primi vincoli sociali umani sia all'origine del linguaggio in una specie in cui il processo di maturazione è tanto prolungato, al bisogno delle madri e dei piccoli di comunicare. Fanno notare che quei piccoli le cui madri erano in grado di interagire mediante il linguaggio con insegnamenti e raccomandazioni e di sostenere lo sviluppo avevano maggiori probabilità di sopravvivere e osservano che ciò avrebbe a sua volta teso a promuovere ulteriormente i mutamenti fisiologici, tra cui una maggiore capacità cerebrale, mandibole più piccole e uno spazio maggiore per la laringe, che segnano anche il passaggio dall'ominide all'umano e insieme lo sviluppo del linguaggio. Maturana e Varela, tuttavia, connettono specificatamente al sesso la comparsa del linguaggio, quale strumento umano per facilitare la spartizione e la collaborazione, sostenendo che il sviluppo del linguaggio, quale mezzo per comunicare nei rapporti intimi, fu facilitato dalla sessualità ininterrotta della femmina umana. Osservano che ciò deve avere tendenzialmente promosso contatti più prolungati e di maggiore collaborazione tra femmine e maschi, e quindi un maggior bisogno e maggiori opportunità di comunicare. E sottolineano che, sebbene presso molte specie di pesci e di uccelli, così come tra alcuni mammiferi e primati, si rilevi una forte partecipazione del maschio alla cura dei piccoli, la possibilità propria agli esseri umani di un legame sessuale tra femmine e maschi che non subisce interruzione nel corso dell'anno è tale da incoraggiare una maggiore collaborazione a livello parentale. Sviluppo questo assai importante per una specie caratterizzata da un periodo estremamente lungo di dipendenza infantile. Pertanto, in contrasto con quanto ancora troviamo in gran parte della letteratura sociobiologica, Maturana e Varela sottolineano le differenze esistenti tra la sessualità umana e la sessualità animale. Riconoscono anche che siano fondamentalmente diversi da altri animali sotto un altro importante aspetto: la nostra capacità altamente sviluppata di consapevolezza di sé in quanto distinti e nel contenuto interconnessi dagli altri. In altre parole, di coscienza. E anche in questo caso, a loro avviso, si tratta di uno sviluppo inestricabilmente connesso con la comparsa della sessualità umana. Secondo loro, è nell'intimità delle ricorrenti interazioni individuali che personalizzano l'altro con una distinzione linguistica come un nome, che possono essersi presentate le condizioni per la comparsa di un sé come distinzione in campo linguistico. E mentre poche altre forme di vita, come i nostri cugini primati gorille e scimpanzé, sembrano dotate di una qualche capacità di riflettere su sé medesime, la capacità di pensiero concettuale e di immaginazione è chiaramente soprattutto sviluppata nella nostra specie. Non dovremmo pertanto sorprenderci di trovare proprio negli esseri umani il massimo sviluppo della coscienza, né dovremmo sorprenderci, data la nostra capacità molto più sviluppata di comunicare, assieme alla capacità di ininterrotti rapporti sessuali e al bisogno di connessioni intime nell'infanzia, di trovare proprio negli esseri umani il massimo sviluppo di quella che Maturana chiama la biologia dell'amore. La biologia e la chimica dell'amore. L'uso che Maturana fa del termine amore sconfina quasi nella poesia, e in fondo la poesia è la tipica letteratura dell'amore. Se l'espressione biologia dell'amore può a tutta prima sorprendere, è indubbio che l'umano bisogno d'amore scaturisce da un fatto biologico. Senza amore, quantomeno senza connessioni o vincoli affettuosi di una certa intensità, noi esseri umani non sopravviveremo. Chiaramente da piccoli non possiamo sopravvivere se non veniamo nutriti e protetti dal freddo, né possiamo sopravvivere senza contatti tattili, come confermano tragicamente gli studi condotti su bambini che muoiono negli istituti senza apparenti ragioni fisiche, ma perché nessuno li accarezza e li tocca con amore. Come scrive l'antropologo Ashley Montagu nel suo lavoro innovativo sul tema Touching, è dal tocco amorevole che traiamo le sensazioni fisiche ed emotive più intense. È dal tocco amorevole che ricaviamo non soltanto piacere, ma anche conforto nel dolore, speranza nella disperazione e inoltre quel senso indispensabile di non essere dopotutto soli in questo mondo, ma connessi con altri della nostra specie. Dunque, come scrive Maturana, non è esagerato dire che noi umani alla lettera dipendiamo dall'amore e ci ammaliamo quando ci viene negato in un qualsiasi momento della vita. Ecco dunque perché Maturana asserisce che la biologia dell'amore è non soltanto la base della società umana, ma anche una dinamica profondamente imbricata nella storia dell'evoluzione. Inizia con quella che definisce la tolleranza di un'altra creatura all'interno del proprio spazio, che si rileva presso moltissimi insetti, uccelli, mammiferi e altri animali, e culmina nella nostra specie con la forte emozione conscia glorificata nella letteratura religiosa e laica come l'esperienza umana più importante e, nel senso spirituale della parola, più nobile. Il processo attraverso il quale questa emozione si è fatta tanto forte e potente è attualmente oggetto di un riesame da parte degli scienziati, e quanto vanno scoprendo offre una prospettiva quanto mai interessante su un altro straordinario sviluppo evolutivo, tuttora negletto, l'evoluzione del piacere. Nuovi studi indicano che nel corso dell'evoluzione la natura prese a sperimentare ricompense chimiche che forniscono al corpo un enorme piacere, sia quando siamo amati, sia quando amiamo. Ecco dunque che cosa presumibilmente è accaduto. Sostanze chimiche, quali le endorfine, ovvero le morfine endogene, forse in origine entrarono in gioco essenzialmente come analgesici, capaci di alleviare il dolore provocato da una ferita, e/o come stimolanti capaci di fornire energia supplementare per sfuggire a un predatore. Ma a un certo punto dell'evoluzione, queste sostanze chimiche acquisirono una funzione nuova e assai diversa. Infatti, invece di limitarsi a soccorrere un organismo in una situazione dolorosa di lotta o fuga, queste sostanze chimiche portatrici di piacere servirono a promuovere il vincolo prodotto dalla premurosità e inoltre il tocco amorevole necessario alla sopravvivenza di specie più complesse. Come scrive lo psichiatra Michael Leibowitz in The Chemistry of Love, la chimica dell'amore, è questa ricompensa elargita dalle sostanze chimiche che nella nostra specie spiega probabilmente l'euforia dell'innamoramento. Perché questo stato, così come gli intensi piaceri dell'amore sessuale, pare associarsi a un innalzamento dei livelli di talune sostanze chimiche e probabilmente della feniletilamina, una sostanza simile alle anfetamine. Con molta probabilità, queste compensazioni chimiche sono uno dei fattori che determinano il piacere che madri e padri provano nel prendersi cura dei loro bambini e spiegano il senso di soddisfacimento pieno che provano gli innamorati. Si tratta insomma del piacere, poiché entrano di nuovo in gioco le sostanze chimiche, probabilmente le endorfine. Se questi studi sono agli inizi e le conclusioni sono ancora di carattere speculativo, forse contribuiranno un giorno a spiegare quegli stati di beatitudine euforica che nei secoli i mistici hanno associato all'amore per il divino. E forse ci aiuteranno anche a comprendere meglio quel che sta dietro all'intenso piacere che sentiamo nei momenti di creatività, di scoperta, di contemplazione estetica e di utilità per il prossimo. Dato ancora più importante, quanto andiamo ora apprendendo sull'evoluzione dell'amore e del piacere indica la necessità di talune rivalutazioni delle teorie evoluzionistiche. Infatti, questi studi sostengono la conclusione che, come l'evoluzione del sesso e della coscienza, l'evoluzione dell'amore fu un'importante svolta nel movimento verso forme di vita più complesse o altamente sviluppate sul nostro pianeta. Dimostrano che quando parliamo di adattamento non possiamo più ignorare la capacità di amare e che in realtà lo sviluppo più adattivo nell'evoluzione della nostra specie è probabilmente stato lo sviluppo della grande capacità umana di amare e non, come pretendevano un tempo certi teorici, la nostra capacità di grande violenza e aggressività. Inoltre, questa nuova linea di ricerca indica che l'evoluzione dell'amore umano e l'evoluzione della sessualità rientrano in un movimento molto più ampio, nel movimento evolutivo dal primato del castigo del dolore al primato della ricompensa del piacere, il piacere, in modo assai specifico, derivante dall'amore, come movente fondamentale che porta ad assumere comportamenti adattivi. La spinta dell'evoluzione e la sfida della trasformazione. Visto da questa prospettiva allargata, il forte movimento contemporaneo tese a completare il passaggio da una società della dominanza a una della partnership, parebbe animato da null'altro che dalla spinta dell'evoluzione. E ciò non solamente perché nella nostra era altamente tecnologica, con le bombe all'idrogeno e i buchi dell'ozono, quanto si richiede per conservare la vita umana e quanto per mantenere una forma di organizzazione sociale della dominanza entrano in rotta di collisione. È anche perché, in qualsiasi epoca, il modello della partnership che promuove, invece di ostacolare, l'amore e il piacere, appare più conforme al movimento dell'evoluzione, verso quello che nel senso normativo o valutativo della parola, diciamo più altamente evoluto. Questo movimento evolutivo ha attratto l'interesse di un certo numero di studiosi, compreso lo stesso Darwin. Sebbene oggi i neodarwinisti considerino un'eresia parlare di un qualsiasi movimento verso livelli superiori di funzionamento nell'evoluzione, come scrive Robert Richards, una vera autorità in materia, Darwin postulò quattro fasi nell'evoluzione di quello che definì il senso morale, da lui considerato il tratto distintivo più importante della natura umana. La prima fase si ebbe quando gli animali svilupparono istinti sociali che vincolavano gli individui strettamente imparentati. La seconda fu l'evoluzione di un intelletto più grande. La terza venne con l'acquisizione del linguaggio e la quarta, secondo Darwin, fu raggiunta quando taluni costumi finirono col modellare la condotta degli individui. Similmente, il biologo Julian Huxley in Evolution in Action, Evoluzione, la sintesi moderna, scrisse delle nuove possibilità e della comparsa di qualità nuove di esperienza. Più recentemente, lo psicologo Abraham Maslow ha parlato di una progressione dalla deficienza o bisogni di difesa comuni a tutte le forme di vita, a bisogni superiori che chiama pulsioni sull'autoattualizzazione, da lui considerate una potenzialità della natura umana. E a partire dalle osservazioni di Darwin sulle origini e lo sviluppo di un senso morale e sulla scoperta delle attuali ricerche sul cervello, lo psicologo sociale David Loy ha costruito la nuova teoria della graduale evoluzione del potenziale della nostra specie, in quella che chiama sensibilità morale. Vorrei ora aggiungere che la prospettiva di questi studiosi è molto diversa da quella di Herbert Spencer e di altri darwinisti, i quali tendevano a considerare come una sorta di apice evolutivo la capacità della nostra specie di manipolare l'ambiente fisico e sociale e utilizzavano questa conclusione per celebrare il successo evolutivo di rapaci, capi d'industria del XIX secolo. Differisce notevolmente anche da quella di teorici aprioristici, come Teilhard de Chardin, secondo il quale dietro all'evoluzione c'è il dispiegarsi di un piano divino predeterminato. Per esempio, l'astrofisico Eric Chasson scrive che, contrariamente alla tesi di un'evoluzione cosmica teleologicamente guidata da un universo intelligente o memore, a parer suo, il fenomeno dell'intelligenza si è sviluppato, si sviluppa e continuerà a svilupparsi naturalmente attraverso i principi dell'evoluzione cosmica. Ma, e se si tratta di un sottotesto per la teoria della trasformazione culturale, questi studiosi non ignorano il fatto che da un esame dell'intero arco della storia della vita sul nostro pianeta risulta che esistono cambiamenti osservabili dai livelli più antichi ai più recenti, E ne sono impressionanti esempi i potenziali di sensibilità nei confronti degli altri, di creatività, sensibilità estetica e amore, unici della nostra specie. Tuttavia, come abbiamo visto nella parte prima, proprio questi potenziali devono essere distorti e bloccati in società orientate primariamente sulla dominanza piuttosto che sulla partnership, se il sistema di gerarchie fondate sulla forza e la paura del dolore deve mantenersi. Quindi non soltanto in termini di semplice sopravvivenza, il modello della dominanza non è adattivo nella nostra era altamente tecnologica. Indipendentemente dallo sviluppo tecnologico di una società, esiste un conflitto tra quanto è necessario per mantenere i sistemi della dominanza e quanto è necessario per il nostro pieno sviluppo in quanto specie. Se come in effetti pare stiano le cose, l'evoluzione della sessualità umana e il lunghissimo periodo di dipendenza nell'infanzia ci hanno portato al forte, struggente desiderio unicamente umano di connessione e quindi al grande piacere che noi esseri umani traiamo dall'amare e dall'essere amati, allora un'organizzazione sociale più orientata verso la partnership che verso il predominio è più congruente con la nostra evoluzione biologica. E se, come pure sembrano stare le cose, fu l'antica direzione presa dall'evoluzione culturale in Occidente, come si evince dalle immagini sacre in cui è virtualmente assente la soppressione della vita e sono venerati il dono e il nutrimento della vita, allora dovremo riuscire a raccogliere la grande sfida contemporanea per una fondamentale trasformazione personale, culturale e sociale. Ma un conto è dirlo, un conto è affermare che inevitabilmente ci riusciremo. A bloccare la trasformazione si ingeriscono modelli culturali e istituzioni profondamente radicate. Inoltre, un dogma basilare della moderna teoria evoluzionistica è che quanto accade nella storia del nostro pianeta non è predeterminato, così come non c'è nulla di inevitabile nella comparsa, nell'estinzione o nella sopravvivenza di una specie. Non c'è nulla di inevitabile nella direzione dell'evoluzione culturale umana. Oggi, tutto intorno a noi sono state scosse credenze e istituzioni un tempo solidissime, in quanto si sta disintegrando il vecchio sistema della dominanza e ci sta portando sempre più vicino al caos. Ma ciò non significa che inevitabilmente emergerà una nuova cultura della partnership. Come dimostra la teoria della trasformazione culturale, nei periodi di disintegrazione sociale e di estremo squilibrio dei sistemi, si presenta l'opportunità di un cambiamento sociale e ideologico trasformativo. Rientra tuttavia nella gamma delle possibilità un altro risultato. Il sistema della dominanza potrebbe ricostituirsi in forme istituzionali e ideologiche apparentemente nuove, che si limitano meramente a cooptare alcuni elementi del modello della partnership, pur preservando la medesima configurazione di base che offre ricompense sociali ed economiche al predominio e alla conquista, e idealizza se non addirittura sacralizza il dolore. Di conseguenza, come nel momento di una qualsiasi biforcazione dei sistemi, non basta l'instabilità perché emerga una diversa organizzazione sociale. Si rendono necessari noduli di cambiamento trasformativo in numero sufficiente per formare, secondo il linguaggio della dinamica non lineare, nuovi attrattori capaci, mentre il sistema è in mutamento, di ricostituirlo in una nuova configurazione di base. La consapevolezza, sempre più diffusa nel mondo, del bisogno urgente di alterare le nostre istituzioni e i nostri valori è un segno promettente. Ma per utilizzare con successo questo periodo di crisi e insieme di opportunità, onde completare il passaggio da un modello della dominanza a quello della partnership, quale attrattore culturale primario, dobbiamo spingerci più in profondità. Dobbiamo preoccuparci non soltanto di come una società costruisce le sue istituzioni economiche, politiche, religiose ed educative, ma anche di come costruisce fondamentali quali la sessualità, il genere e la spiritualità, e più oltre ancora di come si mantiene attraverso l'uso di dolore e piacere. Vorrei a questo punto dire che, siccome un cambiamento fondamentale comporta lo smantellamento di credenze e istituzioni esistenti, l'attuale lotta per completare il passaggio da un'organizzazione sociale e ideologica improntata sul modello della dominanza a quella orientata sul modello della partnership, inevitabilmente implica dolore, e su questa questione tornerò in seguito. Desidero anche dire che se anche riusciremo nei nostri sforzi per lasciarci alle spalle un sistema che tanto pesantemente poggia sul dolore per il suo mantenimento, il dolore comunque non sparirà. Il dolore, come il piacere, fa parte dell'evoluzione della vita. In realtà, per certi versi, il dolore può risultare utilissimo, non solamente come monito cui dar retta, ma come percorso di crescita personale e spirituale. Tuttavia, nei sistemi della dominanza non è concesso neppure di usare appieno il dolore per conseguire questo scopo, poiché uno degli effetti del dolore cronico è l'ottundimento della percezione dell'emotività. Questo è uno dei motivi per cui oggi tanto si parla del diniego, della presa di coscienza del nostro dolore. Per la verità, quanto accadrà sarà in parte doloroso, ma anche incoraggiante, forse persino divertente. Sicuramente ci fa tremare il sangue nelle vene questa sfida di trasformare fondamentalmente noi stessi e il nostro mondo per modificare il modo di considerare il corpo, il sesso, il potere, il piacere e il sacro. Ma se esiste una costante nell'evoluzione è il cambiamento. Il cambiamento è letteralmente l'essenza di ciò che chiamiamo evoluzione, biologica o culturale che sia. Peraltro, quanto tratteremo nelle pagine che seguono è un capitolo nuovo di zecca di questa avventura creativa. La storia sorprendente, a volte divertente, di come per la prima volta nella storia del nostro pianeta le donne e gli uomini stiano consapevolmente cercando di ricreare addirittura il nostro modo di vivere e amare. Capitolo 10. Il risveglio dalla trance della dominanza. La rivoluzione nella consapevolezza e la rivoluzione sessuale. Nella seconda metà del XX secolo si è cominciato a parlare di una rivoluzione nella consapevolezza, ovvero di cambiamenti radicali occorsi nella nostra visione del mondo. Secondo alcuni, l'evento scatenante fu l'esplosione, nel 1945, della prima bomba atomica, un segnale d'allarme di fronte alla minaccia dell'annientamento nucleare. Secondo altri furono le prime foto riprese dallo spazio del nostro bel pianeta sempre più a rischio. Secondo altri ancora fu la velocità vertiginosa dei cambiamenti tecnologici, sociali ed economici che ci hanno sospinti verso un mondo post-industriale. Fu proprio allora che si produssero importanti cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti riguardanti il sesso, quella che i media hanno salutato come una rivoluzione sessuale. Si sono verificati cambiamenti fondamentali anche nella struttura della famiglia e si ebbe una rinascita del femminismo, in quanto in tutto il mondo le donne contestarono rapporti e ruoli di genere stereotipati e quindi il predominio maschile vecchio di 5.000 anni. Tutti cambiamenti di grande portata, tuttavia partecipano di un più ampio dramma che può essere compreso soltanto all'interno dal più ampio contesto della storia moderna e al di là di questa della storia della consapevolezza. Infatti, come vedremo, non rappresentano che l'ultimissima fase del grande risveglio, come da una lunga, penosa trance, dagli effetti di intorpidimento della mente e del corpo di millenni di storia della dominanza. In effetti, questi cambiamenti della coscienza, del modo in cui gli individui considerano se medesimi, i loro rapporti e il mondo, iniziarono in Occidente nei tempi ormai lontani della fine del Medioevo e dell'inizio del Rinascimento, ma furono fortemente accelerati nelle successive fasi della rivoluzione industriale, che apportò massicci cambiamenti tecnologici ed economici, i quali a loro volta indussero importanti cambiamenti, non soltanto nelle abitudini lavorative, ma anche negli abiti mentali e nel modo di vivere. Questi fondamentali cambiamenti a loro volta richiesero un'ampia ristrutturazione sociale, nonché una rivalutazione di molte verità da tempo acquisite. Per cominciare, in gran parte, grazie al tanto calunniato illuminismo, molte cose considerate fino a quel punto ineluttabili, la schiavitù, il diritto divino dei sovrani di governare, la sessualità della donna come minaccia per il benessere morale e spirituale dell'uomo, cominciarono a essere riesaminate e respinte. In breve, i principali sconvolgimenti a livello tecnologico, economico e sociale che segnarono l'inizio dell'era moderna, all'incirca 3 secoli or sono, aprirono la strada alla rinascita della partnership più potente che mai. Perché se dalla nuova prospettiva della teoria della trasformazione culturale guardiamo in modo nuovo la storia moderna dell'Occidente, Vediamo che al di sotto del gioco delle correnti si svolge la lotta tra una spinta sempre più forte verso la partnership e una resistenza altrettanto forte opposta dalla dominanza. E vediamo pure che la lotta non riguarda solamente i rapporti politici ed economici, riguarda, come accade da tempo, i rapporti sessuali, familiari e di genere. E il filo comune è la sfida a un sistema basato su gerarchie che in definitiva poggiano sulla forza e sulla paura del dolore. Se è stato difficile accorgersi di tutto ciò, è perché la maggior parte di quanto ci insegnano sulla storia moderna tuttora si concentra sulle relazioni tra uomini nella cosiddetta sfera pubblica. Ma se riesaminiamo la storia moderna, non considerando i rapporti intimi, meramente accidentali e secondari, emerge un quadro più ampio e realistico. Vediamo allora che la crescente consapevolezza di poter attuare cambiamenti fondamentali nel modo in cui gli uomini si relazionano alle donne, ai genitori e agli altri adulti e ai bambini è integralmente connessa alla moderna consapevolezza della possibilità di attuare cambiamenti fondamentali nei rapporti economici e politici. E vediamo pure che i cambiamenti nei rapporti intimi sono non solo basilari, ma per molti versi ancora più importanti. Infatti, anche se fosse possibile creare un sistema politico ed economico più giusto ed equo, senza badare ai nostri rapporti personali, il che ovviamente non si dà, continuerebbe a mancarci quanto gli esseri umani tanto appassionatamente vogliono e richiedono: la realizzazione di rapporti intimi davvero amorevoli e giusti, fondati sulla reciprocità del rispetto, della cura e della fiducia. La storia moderna è la storia dei rapporti intimi. Per migliaia di anni il nostro umano bisogno di connessione, di vincoli forgiati dall'amore e dalla fiducia piuttosto che dalla forza e dalla paura del dolore, è stato distorto e soffocato. Era solo tramutando i rapporti donna-uomo in una guerra dei sessi, in cui le donne sono ritenute inferiori e pericolose per gli uomini, e condizionando le donne e gli uomini ad accettare e a perdonare il predominio, mediante l'abuso e la violenza nei rapporti genitori-figli, che un sistema rigidamente gerarchico poteva mantenersi in piedi. Pure persisteva il desiderio struggente della connessione. Talvolta, a dispetto di tutti gli ostacoli, trovava miracolosamente il suo adempimento. Più di frequente si manifestava in una disperazione tranquilla, ma non troppo, e nel tormento ossessivo ed esasperato fin troppo diffuso che è la materia di tante poesie e canzoni romantiche. E talvolta in modo ossessivo e persino violento, cercava espressione in quella che chiamiamo la ricerca spirituale, la ricerca di unione o intimità con il divino, che è il tema centrale del misticismo orientale e occidentale. Ma soltanto nei tempi moderni il forte e struggente desiderio umano di connessione comincia a ritrovare un'espressione collettiva. Gradualmente, via via che le nuove tecnologie destabilizzavano abitudini, credenze e istituzioni che parevano inamovibili, emergeva l'ampia gamma dei movimenti sociali, politici ed economici che nei secoli più recenti hanno sferrato un attacco frontale contro la violenza e la dominazione ritenute inevitabili nei rapporti umani. Nel XVIII secolo, il massimo filosofo della democrazia politica, John Locke, propose di sostituire con governi rappresentativi liberamente scelti, basati sulla responsabilità e la fiducia, le monarchie autocratiche, che per millenni avevano governato con la forza e la paura. Nel corso dello stesso secolo, il massimo filosofo del capitalismo, Adam Smith, propose la mano invisibile del libero mercato come modo per porre fine al controllo economico dall'alto. Nel secolo successivo, gli artefici del socialismo scientifico, Karl Marx e Friedrich Engels, scrissero di un tempo in cui lo Stato medesimo si sarebbe vanificato e tutto il potere sarebbe finito nelle mani del popolo. In quello stesso secolo, Frederick Douglass, Sojourner Truth e altri leader della lotta contro il razzismo contestarono l'idea che razze superiori potessero dominare, sfruttare e persino schiavizzare razze inferiori. Sempre nel XIX secolo, Elizabeth Cady Stanton, Edwin Down, Matilda Joshlai Gage, Emmeline Pankhurst e altri importanti filosofi del moderno femminismo scrissero di una società in cui la metà femminile e la metà maschile dell'umanità non sarebbero più state costrette in gerarchie dominante-dominato. I movimenti abolizionisti e pacifisti del XIX secolo, i movimenti anticolonialisti per i diritti civili, per la pace e il movimento delle donne del XX secolo condivisero l'obiettivo di costruire sistemi di relazioni liberi dal predominio doloroso e dallo sfruttamento. Altrettanto hanno fatto i movimenti settecenteschi, ottocenteschi e novecenteschi, di gran lunga meno pubblicizzati, a favore di un matrimonio più egualitario e che prevedesse il divorzio per la coppia senza figli se entrambi i coniugi lo chiedevano, e nello stesso periodo il movimento, che si scontrò spesso con un'opposizione violenta, religiosa e laica, per l'abbandono definitivo di annose tradizioni che contemplavano castighi dolorosi per i bambini. In altri termini, sebbene i libri di storia non si occupino quasi mai di tutto ciò, nello stesso periodo in cui cominciava il risveglio e ci si accorgeva della brutalità e dell'ingiustizia dell'ordine gerarchico politico, economico e razziale basato sulla forza e sulla paura, si verificava anche, seppur più lento, il graduale risveglio alla brutalità e all'ingiustizia di un ordine gerarchico supportato dalla paura e dalla forza nei rapporti genitori-figli e uomo-donna. Come abbiamo visto in epoca storica per lo più, l'autorità assoluta, che era spesso potere di vita e di morte del capofamiglia sulle donne e i bambini, era scontata. La violenza maschile contro le donne che disobbedivano agli ordini del marito o erano sospettate di trasgressioni sessuali era considerata sebusta. La punizione corporale dei bambini, spesso in forme estremamente crudeli, era parimenti accettata non solamente come necessaria, ma secondo alcuni scritti religiosi era Dio medesimo a decretarla. Non si vuole con questo dire che dopo la ristrutturazione fondamentale della famiglia occidentale che abbiamo esaminato nella parte prima fossero del tutto assenti anche nelle famiglie più rigide affetto e premure. Come abbiamo visto nella parte prima, persino nelle società brutalmente androcratiche dell'antichità c'erano donne e uomini che si amavano veramente. Indubbiamente esistevano anche madri e padri amorevoli che provavano piacere a prendersi cura dei figli. Per la verità, dovevano necessariamente esistere, visto che la nostra società non può sopravvivere nell'infanzia senza un minimo di premura e cura. Ma è incontestabile che nella maggior parte di queste famiglie premure e cure erano condizionate dall'obbedienza all'autorità e pertanto, consciamente o inconsciamente, venate dalla paura di una qualche sofferenza. È pure incontestabile, come scrivono Francis e Joseph Shee in Marriage and the Family in the Middle Ages, che la famiglia egualitaria, in cui marito e moglie condividono l'autorità e in cui la democrazia si estende entro certi limiti anche ai figli, è un'invenzione moderna, o più propriamente una reinvenzione, in quanto tale affermazione è vera soltanto per l'epoca storica o della dominanza e ignora le famiglie orientate alla partnership di talune società tribali contemporanee. Inoltre, è incontestabile che fino ai tempi moderni e in troppi luoghi tuttora la violenza, di solito in nome di una sana pedagogia, si situi al centro di quella che ancora talvolta si denomina educazione tradizionale dell'infanzia. Le voci sono discordi sulla portata e la diffusione di questa educazione, ma sappiamo che le pene corporali venivano comunemente inflitte ai bambini, sia a casa sia a scuola, per qualsiasi tipo di disobbedienza. E perfino come correttivo a quella che gli adulti consideravano una prestazione inadeguata. Persino la crudele usanza di fasciare i bambini, in origine un adattamento pastoralista ai lunghi viaggi forzati attraverso i territori aridi, era viva in Germania ancora nel 1864. Come Harry Mayhew scrive in German Life and Manners as Seen in Saxony at the Present Day, il 1864, appunto, in talune zone i neonati venivano avvolti Dio sa in quanti metri di fasce, dai piedi fino al collo, proprio come piccole mummie, e le fasce venivano tolte una volta al massimo 2 volte al giorno. Per giunta, questa crudele immobilizzazione, cui si aggiungeva il disagio di restare nei propri escrementi, era soltanto uno dei modi usati per abituare in modo traumatico i bambini alla restrizione violenta. Come racconta in modo straziante Lloyd de Mouze, altri strumenti restrittivi erano d'uso comune, come l'odiosa macchina di tortura, così la definì una donna, che nell'infanzia la assicurava con la schiena contro una mazza d'acciaio che finiva in un collare, sempre d'acciaio, attorno al collo. Che tanta crudeltà non fosse una perversione eccezionale è provato dal fatto riferito puntualmente da James Thomas Flexner, che perfino Martha Washington pensava che sarebbe stato conveniente mettere dei collari di acciaio alle ragazze di Mont Vernon per costringerle a tenere il capo ben eretto. Trova un'ulteriore conferma negli studi condotti, per esempio, da Raphael Scheck, che esaminò pazientemente le autobiografie di 70 persone nate in Germania tra il 1740 e il 1840, periodo in cui già questi metodi cominciavano a essere messi in discussione. Scoprì che tutte parlavano di violenze corporali come norma sia in casa sia a scuola e talvolta riferivano di fratelli e sorelle addirittura uccisi dalla violenza dei genitori o insegnanti. In altre parole, abbondano i dati che dimostrano come questa violenza fosse sintomatica non semplicemente di un'eccezionale, di un'occasionale patologia individuale, ma di una patologia sociale, ovvero più specificatamente della necessità, per il mantenimento dei sistemi della dominanza, di insegnare fin dall'infanzia a conformarsi all'autorità, ricorrendo alla paura della sofferenza fisica. In realtà, l'opinione che insegnare l'obbedienza e la sottomissione sia un dovere parentale era tanto profondamente radicata che nel suo studio sulle pratiche educative nella Boston e nella Melbourne del XIX secolo, Karen Taylor rilevò che perfino quanti ormai dubitavano del valore pedagogico della violenza fisica quotidiana sui bambini, ancora la difendevano come castigo esemplare per insegnare al bambino che la volontà dei genitori è suprema. Alcuni addirittura proposero, quale migliore alternativa alle botte, che i genitori stabilissero l'abitudine all'obbedienza, legando il bambino alla sedia o scottandogli leggermente le dita con il tè caldo. Vista la ricchezza di documentazione sul prevalere delle pratiche educative violente e abusive, taluni storici come Philip R. Lloyd de Meuse e Edward Shorter dipingono un quadro cupo e comunicano l'impressione di un'indifferenza quasi totale da parte dei genitori per le sofferenze dei figli. Secondo le loro ricerche, tra l'aristocrazia come tra la gente comune, di norma i bambini venivano allontanati e dati a balia. I figli dei nobili venivano di solito allevati da tutori o governanti. I poveri spesso mandavano i figli lontano a lavorare come apprendisti o servitori, quando erano ancora molto piccoli. Dal Medioevo al XIX secolo in Europa i bambini venivano spesso abbandonati in strada al mercato o lasciati negli orfanotrofi dove soltanto pochi sopravvivevano. Altri invece, come Francis e Joseph Gies, vedono un quadro meno unitario e affermano che la tesi sostenuta da alcuni studiosi, secondo cui fino ai tempi moderni i genitori non provavano grande tenerezza per i figli, è insensata. Ma anche loro osservano che erano comuni metodi educativi abusivi e spietati, aggiungendo che nel corso della maggior parte dell'epoca storica le dure condizioni di vita unite all'altissima mortalità infantile tendevano a ottundere i sentimenti teneri di uomini e donne, persino nei riguardi dei figli. Per la maggior parte gli studiosi si riconoscono inoltre che di abusi sessuali i bambini sono stati normalmente vittime in epoca storica. Sebbene sia per noi difficile accettarlo, pare proprio che fosse una pratica spesso considerata normale. A ben riflettere, che altro è l'usanza riferita da documenti giudaico-cristiani e della Grecia antica e tuttora in vigore in talune società di vendere o dare in matrimonio bambini in tenerissima età? Che altro è l'usanza, in taluni luoghi tuttora riscontrabile, di cedere le figliolette perché diventino concubine o vengano avviate alla prostituzione? E che altro era allora la pederastia socialmente accettata nell'antica Grecia, l'accoppiamento omosessuale di fanciulli e uomini adulti? Inoltre, contro l'ipotesi che gli abusi sessuali sui bambini si perpetrassero solo alle antiche società della dominanza, esiste la prova inconfutabile che nel XIX secolo, e ciò vale per il XX, tale scelleratezza fosse ancora diffusa. Per esempio, Karen Taylor rilevò, esaminando la letteratura medica ottocentesca, che i dottori spesso riferivano di aver riscontrato malattie venere che avevano colpito i genitali, l'ano e la bocca di bambini e bambine piccoli, figli di genitori affetti da quelle malattie, un chiaro segno che quei bambini avevano subito violenze sessuali.